manda il numero di telefono al fratello, che ce l'ha il fratello Giampiero. Ammetti. Ha risposto il fratello. Nicolato, passate una sera. Ha risposto il fratello, quel numero lì ce l'ha Giampiero, il fratello. Adesso lo cercano, lo manda qua se ci riesce. Vabbè, è così. Vabbè. Barile, barile. Ha dato il numero di telefono suo al fratello, poi lo ha allettato, quindi non può, capito? Sì. Ho capito. Come la sente sta radio? Non è una... non è chiarissima, come te la posso dire? un po' troppo piena. A te, che mi fa chiaro. Va bene. Dopo, ok. Aspetta, Giampierini? Mi senti? Sì. Ti senti adesso? Sì, ti sento. Allora, la penna ce l'hai? Sì, pronto. Ti mando il numero di Antonello, lo chiami e gli dici che mi ha dato Giampiero a me, il fratello. Ecco, grazie. L'ho scritto a penna, così almeno già è facile, dovresti capirlo. Ok. Ascoltati, fammi questa radio un attimino a vedere come, cosa devo fare, buttarla. No, non è male, alza un pochino gli alti, se puoi. Allora, guarda un pochino se va bene così. Quando hai detto, allora, guarda un po', la, diciamo, quasi perfetta, adesso sei troppo alta, basta per la pena. Ok, guarda un po'. Senti questo vecchione qua, Tino. Va bene. Se ti lascio ti mando la foto di questa radio, che tu mi dici che non è possibile. No, va bene. 9:20, Scusati? Sì, 9:20, Radio 5, bella. È positivo, adesso ti mando la foto della radio che sto usando, eh. Io non ti vestino mi picchiare quando mi vedi, eh. Che barattolo è? Adesso ti faccio scrivere il telefono, Antonello. Lo facciamo prima io, aspetta un attimino. Disponibile. Si trova quello mezzo scivoccato, bisogna tentarlo in radio a questo. Va bene, niente, domani qua mi sto preparando il pacco e lo mando a Rino Mazzì. Lo mando, così me lo faccio fare questo superstar. Ho detto lo faccio fare a lui, magari prende e si fa, cioè se lo aggiusta, cioè lo prende, lo aggiusta e niente. Però se non risponde per Giubaeto. Aspetta, che provo a rifarlo. Vediamo un attimino. Milomini, esce di. Sta provando in diretta, aspetta. E lo sgrido pure. Aspetta. fa niente, sta dormito. Sto addormentato questo qua. Non risponde. Cambia il numero di telefono, cambia il numero di telefono, non ci vuoi, ti permetti? No, devo cercare il tuo fratello, non ti ho malato. Non l'ho immaginato che te la ma ha diventato lì? No, diciamo in camera, andando. Già lui, già quello il numero, niente, aspetta, fermo l'imposto, se no. Già, io ho detto che chiama domani. Chiama domani? È già addormentato. No, vabbè, ho detto, non c'è problema. Chiama, già devi chiamarmi. Vabbè, però mai so quando, quindi. Se chiamiamo adesso provaci, dai. Al limite non c'è problema, già sveglio. Stiamo con la previsione. Ho capito. Che microfono sto usando tu? Io? Il 60. Un bel lontano ce l'hai? 50 centimetri, 60, va. Così è come solitamente lo uso. Abbassa a prendere, metti 20. Aspetta un attimino, quanto ce l'ho? A 20. Rombe un bel plan a radio. Guarda cosa sto usando, guarda, sono andato la foto. È super radio. Aspetta, è un bel qua, perché sicuramente stai ascoltando un'altra radio. Aspetta un attimino, che mi imposto questo. Franco, tu sei? Sei occhi. Vabbè, che per quello che l'ascolti così tu attivo, sì, lo sto uscendo benissimo. Se mi ascolta con una scatoletta di tonno, o dove ti dica, ciao Franco, salutoni. Ciao Tino, ciao anche a te Gabri. Senti, una scatoletta di tonno cosa vuoi pretendere? Perfetto, ti sia una scatoletta di aiuta. Positivo. Adesso però gli mando la fotografia a Tino con cosa lo sto ascoltando, là, anche se una scatoletta di tonno. Ti mando la fotografia con cosa lo sto ascoltando e poi vedi cosa ti dice. Ascolta Gavi, non ti parlo più. Ma dimmi cosa sta a fare. Fra, una barra 40, un pacchetto di sigarette. Già l'ho visto io già. Qua, per vergogna, ne ho anche io uno qua, però forse, aspetta, cos'è? Questo è un Zodiac, preciso identico. Non gli ho attaccato neanche l'alimentazione. Se tu attacco le metti lì nel BP4 e un amplificatorino a vedere. Adesso la verità, sta uscendo male. Sembra una radio bella, una radio grossa. No, vi siete sovravondati, comunque non è che sto uscendo male, Gavi, ma grazie a un microfono, voglio dire, la radio, mettiti la faccia, così non si vede, lascia solo il microfono. Figa, sì, tutto lo strofinaccio bagnato magari, però hai visto facendo gli abbinamenti giusti. Questo schifo con un altro schifo di 747, uno schifo di MP4. Sì, però quello c'è un secchio d'acqua vicino, no? Mamma con le viti, butta ciò dentro. Ehi, intanto hai detto che è bella pure. No, ti ho detto che va bene, però voglio dire, Franco te l'ha detto, tu a me mi ascolti male perché mi stai ascoltando con una colonnina di quelle che ci usavano nelle bambole, no? Quelle, quindi è logico che la modulazione non esce perfetta come tu me l'hai regolata in base alle tue radio. Ma ti l'ha detto, ti sto mandando una foto che ti sto ascoltando con gli stessi sottoparlanti che ti ho fatto la muove, che ti ho fatto il microfono. No, non sta cambiando niente, di niente, di niente, di niente. Anzi, ti devo dire una cosa, che è attaccato all'uscita della radio, di questa radio, ho il mixerino, quindi ti posso ascoltare anche bene, capito? Il problema è quello. ti sto mandando la foto degli autoparlanti che sto usando, li ho comprati l'altro giorno, guarda che belli, sono bianchi, nuovi, nuovi, nuovi, guarda, lì sta arrivando la foto. Sì, mandami la foto, sa, non è che non ci parlo più, un casino. Vabbè, scusate, è pronto il rancio, oggi hanno preparato tardi, quindi devo mandare. Se ci siete magari più tardi e faccio una chiacchierata, se ne avete voglia, se no ritenetevi salutati, devo mandare perché mi stanno chiamando da poco fa. No, io sono in radio, io sono qua, mi sto sistemando un po' di roba, fai chiamata con i finisci di cenare, già sono qua, non ti preoccupare. Dopo già entro con le altre, dai, adesso questa l'attacco e entro con le altre. Però guarda la fotografia degli autoparlanti, tu. Guardali bene. E adesso le guardo, adesso guarda, mangio con calma io, non ho fretta. Dai, sentiamo dopo nel caso. No, non mi è arrivato ancora niente. Perché ci sono 40 linee interne da attaccate qua a casa. Aspetta, forse c'è il tablet. Babù, a dopo, dai, ancora non è arrivato niente, da sentiamo dopo. Ehi, a dopo ti buona cena. Grazie. Allora, là. Com'è? Come cade, certo. Sono già picchiato, e domani picchia ancora di più. Caldo? Sono, guarda, qui dove sono io adesso sono 33 gradi. Ecco. Io qua ho 24 gradi. Sono migliorati, pare di venuta tua per militare. Qua c'è la porta sotto, dove c'è la terrazza, che c'è il ventilatore, e il ventilatore a noi. Ehi, ehi, io qua, guarda, mi entra la porta del calore, tutto lo stanno. Tu, non c'è problema. Ehi, Facciamo lavorando? Stamattina, sì, stasera stavo provando a farmi quel 3009. Mi ho preso il tre finale da Fusaro, in transito. Ho preso il trimerino, ho preso un diodo, ho cambiato, niente da fare. Niente da fare, ma il finale non è cambiato? No, il finale è l'ultima pista, però no. Ma secondo me non è roba di finale, c'è qualcosa che non vedo, che non riconosco, che mi fa spingere la motivazione. Non lo so qual è il modulatore di questa roba. Io ho cambiato il transito, quello verde, mi pulisci, ho visto che poi non andava, ho tolto il seminario, l'ho rimesso, mi pulisci, che intanto ho visto che sia buono, gliel'ho rimesso quello. Poi vediamo un po' far lavare all'interno. Sì. Sta giotto. Sono figlio, cosa può essere? Sì, quando non va di partenza può essere un finale, oppure se non è finale potrebbe essere anche il modulatore, penso. Sì, ma perché il buco esce forte? Ah, beh, questo non lo so. Quindi parla con la sorella, che dice lui. Allora, signora Buffa, se sarà sempre di farlo, ce la faccio fare. Ora, un maledito, non tutto c'ha cosa, con rosette e quattro rosette, e dice che questa radio con 747 sta dando 90 watt, capita. Sì, dai, quanto gli danno 90 watt, perché gli bastano 3-4 watt di radio per uscire a questo. Sì, 90 watt, sono 70 di portante bianca e 90 mi abbassa, 90 modulati, vabbè, così parlato 90 watt, 90, 92 watt, mi sta dando modulati. Con questi amplificatori, anche se c'hai un Saturn Echo o una cosa del genere, vai alla grande, va benissimo, guarda. Ecco, però facciamo una cosa, tanto tu ci devi portare dove hai aggiustato il quello lì, io devo portargli il Saturn Echo, tanto facciamo una cosa, mi guardiamo per il museo. Sì, si può scendere, io non ho problemi. Io non ho problemi, insomma. Però ce le deve fare tutti e due assieme e andare lo stesso giorno a ritirarli, capito? Beh, quello sì, magari lo fa prima uno, poi l'altro, a forza di farlo, per dire, di, ci andiamo, a forza di andarci fra due giorni o un giorno, ci andiamo fra tre giorni, quattro giorni. Esatto, esatto, quello è quello. Se ce lo fa tutti e due assieme ci vediamo lo stesso giorno, ma lo genere un mese, però no, fa la prima dopo io, cioè tutti e due andiamo e ci vediamo. No, non c'è bisogno di andare 50 volte. Se gli dice quello che devono fare, che deve fare, e basta. Poi, quando sono pronti, tutti e due chiamaci. Ehi, ehi, bisogna farci buscare il numero, bisogna buscare il numero e chiamarci. Ehi, cappa, quel numero c'era Massimiliano Bundotto, mi sembra che c'era. Dovrebbe averlo anche Tino. Dovrebbe averlo anche Tino, quello. Capito? Ehi, non lo so. Se no portiamo e ce li portiamo tutti e due, ce li portiamo, andiamo e torniamo, intanto quanto ce ne faremo, un'ora andare, un'ora tornare. Boh, neppure di buono, non qua, se non è mezzo, no, non è un problema. Andiamo di mattina alle, quando alle 9 siamo lì, glielo diamo, alle 11 siamo a casa, ci togliamo il pensiero. Un giorno che siamo liberi, glielo portiamo. Cazzo, sì. Ma ci buttiamo un numero prima. Ehi, ehi. Sì. No, perché, guarda, mi rompere le scatole per lo fermo. Se lo controlla tutto, cioè avrà gli strumenti anche per controllarselo sicuramente. E penso che quindi sia. Penso proprio di sì. Sto controllando una cosa quasi. Credo proprio di sì, però. Senza problemi. Ma la buca con il numero, dai. Sicuramente c'era anche Claudio, eh? Ehi, ehi. Sono a casa sabato mattina, sei tu sabato mattina, mi devo sì, sono a casa. Se riusciamo a contattarlo sabato mattina, mi riportiamo. Ehi, al limite se lo contatti, gli dici che c'è un Galaxy e quello lì, capito? Poi ne parliamo lì, quello che c'è da fare. Sì. Senza problemi. Vabbè, immagini tu fermi da tutto. Ecco, io ti devo faccio buonanotte, non sono lì a questa non funziona, questa non funziona, ormai non mi funziona tutto, ho svinto il tutto, e mi dai segnali giusti. Ebbè, per forza, ogni tanto, cioè, a me le cose piace farle bene, non no, è che la roba funziona, non funziona, Dio non tira. Ecco. E poi lo faccio, lui lo fa tutto a strumento, lo fa il conto di partenza da 0 a 10, ma lo fa tutto a strumento e poi lo posso abbassare, se lui attacca un lineare l'abbasso a 1 watt, 2 watt e alle linee bianche. Esatto, quello è che lo te lo fa regolabile con lo V2 e te lo tara, te lo linea in banda e ti fa tutto. Sì, c'ho anche la banda da parare. Non è tanto, ma la faccenda l'ho già detto tu. Andava bene, con questo qua, ancora a riparare il mio salato, tutto quanto da allineare, da fare. Però lo vuoi fumare, non mi interessa. Non lo posso fare, non mi interessa. Va bene. Capita che mi è rimasto male, pensava che era un radione, invece si è avuto uno squilibrio. Ma guarda, all'inizio, quando ti ho sentito la prima volta, non pensavo che era quella, se non me lo dicevi, pensavo che stavi uscendo con la grande. Qua in questo microfono c'è la capsula bella qua, è per quello che la fa, è per quello che fa quasi, se io te lo attacco a un'altra radio esce bene lo stesso, se lo attacco a una radio schifosa esce bene lo stesso, cioè questa è una radio schifosa, che sia ben chiaro, è una radio schifosa, perché io, guarda, ci metto un attimo, faccio c'ho un microfono qua, infatti lo faccio... Mi faccio un attimo le connessioni, ti faccio vedere quanto fa schifo questa radio con microfono normale. Cazzo, lo sai che ho attaccato la capo sulla velocità? Ho attaccato la mia 4 e non va. Cosa apra? La capo sulla velocità. Ho attaccato la mia 4 e non va. Non va. No. Non va. C'è la sua amplificazione e allora ho rimesso il suo funzione dura io ho una capsula di una capsula quella che c'è in questo qua e quella qui voglio montarla per vedere se va bene, ti piace, ti va bene e non un po' di quelle capsule di quelle qua come sono perché sotto connessioni, okay. Qua la massa è in alto, c'è la massa e il rosso, la bianca, allora prova, guarda che vuoi continuare una cosa, che c'è lì? Certo. No, ma io ho provato, non riuscivo meglio come microfono, invece niente, non da. Ho provato a cambiare i nuovi fili, lunga no, allora l'ha cercato come te. Faceva schifo? Nulla, non usciva niente, non mi faceva andare la radio. Sì, vabbè, magari. Io ho provato a collegare il Turner in questo schifo qua e non sono riuscito a trovare, ho trovato la portante, la ricezione, tutto quanto, però andavo a collegare l'impianto e mi fischiava la radio. In qualsiasi modo, cioè non ho mollato tutto. Perché poi rischi di fare danno. No, non è che mi rischio di fare danno, a me mi interessa che non faccio danno al microfono, no alla radio, capito? Sì, va bene. Certo, se fai danno a quella che c'hai adesso, quella piccolina, non se la fotti lunga, però quando usi un'altra radio ti interessa. Mi sembra anche giusto, mi sembra proprio così. No, ho preso infatti l'aereo. No, infatti ho preso e l'ho messo da qua, ho detto come aggiungerò il diciamo la radio che ho comprato per questo è il microfono, cioè non la radio, questo è il microfono. L'abbinamento suo lo prendo e lo ripiano. Aspetta, lo uso, ma non riesce a fare connessione. Capita. Sai, adesso quanto ci chiede, mi fa venire un dubbio, non sono di proprio. Sì, sono ogni tanto, poi alla fine riesco a trovarlo. Traccaglia da buio, un mulli, un corri a pigliare e vedresci. Sì, ma infatti io quando mi stanco, perché lui viene voglia di prendere e mi faccio dentro la cosa psichica, quindi ho detto prima di fare una cosa del genere, prendo e mi torno, dai, premo e faccio altro, quindi non voglio arrivare a più figli. No, non conviene, che costano. Piano piano, ci vuole pazienza. Aspetta un attimo che vado a prendere una pasticca. Vai, sono qua. Vedete pure che mi trovo, mi sono rifatto di connessione. Se ne guardo, vai, lo stai facendo. Sai che mi è arrivato stamattina con l'affare là, la supporto. Lo stesso problema del TAR mi dà questa merda. Ah, io? Che avevo? Oh, Gabri, stamattina mi è arrivato il supporto del microfono. Ed è più robusto dell'altro che c'era originale. Ma va, è più massiccio? Più grossetto. Più massiccio, leggermente. Però è bello, Aspetta. Niente. Quindi. Era ora di fare cosa vuoi dire. Chiaro. No, già è bello. Me l'aspettavo uguale a quello là io, però come l'ho visto è diventato caspita, bello veramente. L'hai già piantato? Sì, subito. E allora? Ce l'avevo tutto storto, ce l'avevo. Sì, infatti, mi era uscito dopo la notte si voglia. Quando mi arrivi la roba, tutti che pesa e paga. Ora mi serve importante questo schifo qua. Non riesci a vedere la portante? E tu prendi una pizzetta e cercala la portante. Perché non stava andando importante? Quando? Non stava andando importante. Io non ho visto nessuna portante. Aspetta, adesso lo butto dall'altra parte del muretto, non ci sono qua adesso. No, se tu lo butti dall'altra parte del muretto c'è il vicino e poi si sente lui parlare. Aspetta che mi cerco il cosuato un po'. È l'unica, te lo cerchi e poi cerchi i fili da agganciare. Parti col rosso e poi fai la croce, tanto è la portante. Se quella l'hai trovata. Guarda a vedere se sta uscendo adesso. Sì, sta uscendo. Schifo fa. No, perché? C'hai un'alternatina? Ho un'alternatina? No, adesso no. Ora. E un po' già accetta. Accorgo, già sono molto. Hai visto? Questo qua è originale. Certo. questo va bene, va bene. Allora è chiara la motivazione. Andare, è meglio questo, che lasciami se è attaccato un filo dell'altro. Meglio. Allora, Fra, ti cuppi? Certo che ti cuppio. Abbiamo detto, è meglio questo qua, guarda la modulazione, ola, ok? O è meglio questo qua, guarda un po'. Questo è meglio. Questo è il 24. Questo è migliore, come timbrica e tutto. Andare, andare. Però quello a palmare va bene. Sì, è buono anche quello là. Però come timbrica di modulazione è molto meglio questo qua. La radio la fa forte questo qua, non, la... non è che sia forte la radio, perché la radio è un tipo, questo qua più quello che sto usando che la fa ultima, cioè ultima, che la ottimizza, però sempre un schifo. Sì, tutto d'accordo, però ti fa una bella radio. Se tu non lo dici, nessuno ci pensa che c'hai una radiolina del genere. Ma il bello è dirlo, capito? Il bello è dirlo, perché a volte uscire bene con un Kenwood o con un HF o con una radio buona ci vuole poco, con un abbinamento ci si bene. Il bello è abbinarti queste cose qua e appintarti, avvidesi, come te, sperimentare, dai, a me piace anche quello, fare poco. Sì, e quello già è vero. No, ma diciamo che una volta che tu gli abbini un microfono, gli abbini, e vedi che va bene, e ti aumenta la radio, te la fa in un certo modo, che sembra, perché secondo che se tu gli dici che stai usando un HF, lui ci crede. Vabbè, ti racconto una cosa per messaggio e poi mi dici è impossibile, però è così. Come ti dica, le radio sono belle tutte. Quando la senti per il microfono sono tutte belle. Poi cosa c'è dietro non lo sappiamo. Sì. Va bene. No, a me non interessa, io ti ripeto, questa qua ce l'ho per usarla quando capita, se c'è qualche temporale o qualcosa che non va, uso questa qua. Però la sto testando, capito? Sto guardando a vedere il lavoro che ho fatto all'amplificatorino della ventola e quando lo, in pratica quando la accendi lì si accende anche la ventola, quindi lui è sempre bello, anche se rimango a portanto, lui è sempre bello tiepido, mai non scalda mai in eccesso. E la sto provando anche l'altra antenna che ho montato per lui, per questa radio qua, per stazionare le cose, tutto qui, non c'è problema. E adesso attacco il conto, inizio a vedere se cambiava la cosa. Certo, ascolti che ti metto un portatile, ti metto, gli aggancio un altro tipo di microfono al posto del microfono suo e esce bene lo stesso. Certo che esce bene, fra tutti quanti escono bene, volantenna esterna, volantenna sul tetto, guarda che cambia tantissimo. Appunto, basta mettere gli antenna del tetto e cambia. Gli colleghi, la modulazione gliela passi all'MB4 e te c'è lo stesso. Certo. Adesso quanto costa l'MB4 da usare? 65 euro. Non è tanto caro invece, perché a te forse è quasi 80. 65 euro vuole. 65 euro. Quello, diciamo, non quello che ho io, no? Quello che ho io. Capo, io avevo pagato l'MP5, avevo pagato 70 euro. E mezzo microfono diverso poi. Sì, quello sì. Vabbè, quello c'è anche il tuning. Diciamo che se lo merita, penso che e l'ho preso da fusare lo stesso, è nuovo. Sì. Guarda, io nei baracchini mi sono sempre trovato bene con i capi. Io mi sono sempre trovato bene, Turner MV4, finissimo, anche perché l'MV5 non ce l'ho mai avuto, non l'ho mai avuto. O avevo avuto il Salenza, ho avuto, ne ho avuto un po' di tutto, un tranne l'MV5, però mi sono sempre trovato bene col Turner Q3 e il Turner Q3 su questi due. Quello, insomma, i microfoni mi sono piaciuti più di tutto. Sì. Cosa hai comprato? Un trovo bacca. Io, Daniel, mi dai un po' di ma hai creduto molto di Dio. Beh, perché lo devo buttare? Buttarlo no. Te lo credo, non darlo a nessuno, sono microfoni che poi non trovi più, No, infatti non bisogna darlo. Va bene. E tu ce l'avevi lo stesso Turner? Sì, e adesso quando viene l'amico mio scendo me la prendo. Se non l'ha aggiustato, cerco di aggiustarmelo io. Esatto, perché guarda che il Turner, adesso tu mi dai, però il Turner con Saturn Echo è una bomba, Lo so. C'è un microfono che secondo me è stato progettato per quella radio. Cosa gli dai? Vabbè, non ci vuoi fare. Un casino. Io ancora il Turner e la cosa, il Galaxy non ce la prendo. Ancora, l'avevo comprato, lo stavo mettendo al Presidente Lincoln, lo stavo mettendo. Sì. Guarda, il Turner è bello, nel 2009, nel Tornado, nel Saturn Echo, nel Pluto, in quelle radiologie è bello. Scivoli, lo tornato con le picchiate, lo tornato va bam bam quando che ce la porta. Già lo so, già li ho sentiti che pare mi che quasi 40 kilowatt. Io avevo il tornado e il samurai giù quando avevo il Tornado, il Samurai e il Magnum S9 colpo. Ma va vivo, cioè avevo l'MB4 nel Samurai e nel Tornado avevo il Turner Q3 Super Silver. Te lo faccio dire da quando prendevo entravo col Tornado, un po' mi diceva questo sono il Tornado, sì. Perché dava l'effettato quando entravo. Sì. No, io S9 stavo cercando di comprarlo, poi però costava troppo, ho usato, lo volevano anche troppo, più di 300 euro, allora gli ho detto, basta, con i bill, ma prima mi dicevo a caifa. Dicevo, L'S9 è colto, con doppio modulatore, era proprio fatto, era una scheggia serrata. Ci sono anche sci a fuori, che la vetta, bella. Ecco, colto, doppio modulatore, bit secco, 240 canali, modulazione saliva a 26 watt, era assurda, era bella. 25 watt, non potete essere, 25 watt là. E aveva un watt e mezzo di portante bianca, cioè portante unica era un watt e mezzo. Perché l'hai data quella cosa? Quando avevo venduto tutto avevo fatto tutto un blocco e la radio l'avevo venduta a un tipo di campanella, a un camionista che era di campanella. Dopo non so, mi sembrava spedita a prendere, a fare qualche modifica. E la quella roba tutta in continente, lineari, carne, tutti i continenti, quindi ho fatto un pacco, ho fatto due pacchi, mentre la mano va volato il continente. Tutto un blocco, via. Tutto. E poi sei drogato, dovuto occupare tutto dopo. E vabbè. No, io prima a casa non avevo, avevo solo barattini, avevo barattini e lineari grossi. E poi con un grobe pronto, poi avevo un bulldozer, in cui Val voleva via sul bulldozer, se lo sabbirava. Certo, valvolare, quelli sono micidiali, quando scaldano quelli, quelli pompano. Sì, e io avevo anche un grobe pronto, quello... quella aveva 4 valvole, poi il bulldozer aveva 5. Avevo il tornado, il carne più 3 super sideri, il samurai e le mie 4 e le cose, il magnum S9. Non avevo neanche HF, tutti gli HF non avevo. Poi avevo due B831 a Jaud, avevo un bel alimentatore della CEP, un 50 ampere, era bianco, col frontale blu e nero, e poi cosa avevo? Avevo roba a un ala 88, l'ala 88 avevo, sì, anche. Ecco, ora già adesso cosa fai? Poi io a 1931 ne ho avuto 3, una me la prendo con lui e l'altro, l'altro due ce li ho qua, ce li ho. E poi niente, l'unica cosa che volevo io una volta era il lineare per lanciarlo qua, la caia. Visto che era una cosa di bravissima per servire. E poi visto il prezzo che costava non me ne ho mai comprato. Sì, fra. Sì, perché per agganciarle a... non è per agganciarle agli HF ci vuole il tavoletto, ci vuole la... non è la patina, ci vuole un lineare rosso anche. Cioè abbia un bel ingresso, almeno una cinquantina di watt. Quindi i gauge sono belli, non costano neanche tanto, con 500 euro, il 2000, sono quelli di inversione, non ricordo la sigla, comunque i gauge. E il Sommercamp 700 euro pure. E... ma ce n'è mica, ce n'è a buttare, ce n'è da... se volete, se hai solo a 700 euro così da investire, che vuole, se ne sono scritto, prendo e lo trovo un bel amplificatore da 500 watt lo prendo. Sì, quello sì, caspita, già li ho visti quelli, infatti, mi era mandato solo uno da 500, anche se non l'avrei sfruttato al massimo, uno da 500, per agganciare qua era fatto un gioiello, perché avrei messo, non avrei sfruttato la radio, la pizza. Certo, tu io, ma quello, cioè, non sfrutti la radio, che prendi e tieni la radio, cioè la radio attiva, la rise, non ti trovo solo per quello, prendi la radio, ma chi si tratta da lungo, uno da lì ti molla, ma lì ti molla. No, ma... alla fine dell'amplificatore lo può usare in alcune situazioni in propagazione, magari che vuoi arrivare che vuoi arrivare, ti dai un pochino più di forza e un pochino più di spinta e fai il collegamento, però se ti senti lui, se vuoi che ti senti tu, senti lui, è inutile avere l'amplificatore, perché usi. L'amplificatore è bello perché se te in due, se avete l'amplificatore in propagazione, attivo, non passa nessuno, ti fai questo, magari ti dura 2-3 minuti in più e ciccio. Però in locale qua non te ne fa niente, non ti dura niente. Ma poi lo sappiamo che il locale non ti serve a niente, la potenza non ti serve a niente. Il locale basta il batte della radio, basta. E il modo che quando stai facendo un direct che non ti ascoltano e tu ascolti bene l'altro, capita, aumenti e ti ascolta bene, ti fai ascoltare. È solo quello, solo per quello lo volevo avere. Perché in modo che per fare quel show, come hai detto tu, per fare quel show, diciamo, a posto di farlo di 5 minuti, puoi fare anche di 10 minuti. Beh, poteva avere qualche punto in più per farti sentire, per fare anche una sorta di sfida, capito? Alla fine è musica, e anche la radio potrebbe essere anche una questione di, se vogliamo, di forza, una questione di competizione. Perché anche così alla fine quando fai chiamata e ci sono quelli sotto, ti guida la montiglia, e allora il chili se avete tutti 40 kg va a avete tutti 40 kg. Ma l'amplificatore si può sempre prendere per occasionalmente, poi dice, ma se ce l'hai lo usi, per cosa lo devi usare? Puoi fare qualche prova, un minuto e basta. Non è che c'è sempre l'amplificatore attaccato a tutti i mattana. Quello si usa in alcuni casi, lo prendi e vedi che c'è propagazione, bella, lo accendi lì e ti fai una serata, ti fai quelle 2-3 ore con l'amplificatore in stand-by, quando ti serve lo attacchi e esci in potenza. Non è che fai sempre l'amplificatore attaccato, lo metti in stand-by, quando ti serve, esci in potenza, fai il collegamento e spingi. Perché deve fare sempre attaccato. Stand-by cosa ti chiede di consumo? Consuma danno bombe, se no il stand-by cosa consuma? 304. No. E vabbè. No, anche io sono. A me piacciono gli amplificatori, però piacciono belli massicci, a me piacciono gli amplificatori belli massicci. Belli sono gli Ameritron, ci sono gli Aesu, ci sono dai quelli. Ci sono quelli super professionali, cioè super professionali quelli. Adesso non viene il nome, che vengono fatti 5.000 euro, ma di quelli non ce ne faccio niente. Mi basterebbe anche un bel Ameritron da 800 watt e non mi chiederei altro. Ma io ho preso la mia attacca al sodalizio della tensione. Guarda, quelli come possiamo usarlo noi, ti ripeto, alla fine lo puoi usare tipo una giornata di propagazione dove tu senti qualcuno forte, lui a te non ti sente, allora gli dai un pochino di potenza, ma neanche a fare i giabidoni, miglia, quindi gli dai quei 100, 150, 200 watt, e allora lì ti fai il collegamento, ti diverti in quelli, quei 4-5 minuti e basta, è finito, e puoi dire che ti hai usato. Stavo usando 500 watt, sì, è vero. Qual è il problema? Mi sono divertito, ho fatto da qualcuno? No, allora, pace e bene. Io la penso uno, ma prima che me lo comprerò, prima poi se voglio me lo prendo, però adesso ho altre priorità. Magari mandiamo un dicevano in cupo di amplificatore. Però in questo momento non mi serve. Magari domani non serve. Ci sono altre priorità, altro che sono molto più importanti. E vabbè, poi se sarei stato radioamatore, allora avrei fatto di tutto per averlo, ma finché che non sono, ma è cavolo meno a tutti dai cucciati, agli su Zareco, agli su Francesco, su Americano. Ma non devi ascoltare, devi incendiare l'antenna, è bello quello. Ma a parte ascoltarlo, oppure a parlarci, il bello è che ci arriva lo stesso, il giorno di propagazione, senza tutta quella potenza, mi basta la potenza della radio, perché la radio, questa qua, potrà mai da uscire. L'altra sera, sto parlando, ho fatto quei due giri con quel tedesco, mi ha fatto da 115 mi ha fatto di potenza. Vuol dire che è truccata? Non lo so, perché a me me l'hanno data così, me l'hanno data, capito? A 115, io sono convinto che davvero ancora di bussare davanti lo slider, che andate a buon di più. Certo, certo, va di più, però alla fine stavamo disturbando lui, già alla fine cosa... alla fine non te ne fai niente. Invece di portarla a 110 watt la tieni a 20 watt con l'amplificatore, avresti dato 200 watt avanti e mi è stato il gioco. La radio calma, un amplificatore da 800 kg o da 800 watt o da 1 kW lo tieni calmo e ti dicono sai quanto? A 300 anni. Ehi capo, guarda, mi sta dando adesso mi sta dando modulati 30 watt. Io adesso, come adesso, sta andando con 90 watt. Se tu sei stato attento, riesci a vedere. No, 90 attento, non aveva a 40 watt, 40-50 watt. Sì. No, io sto tranquillo, 90 watt mi stanno questo booster. Questo booster mi sta dando 90 watt. Soltanto un formato bianco 90 watt. E mi va bene. E mi va bene così, con 5 watt. Lo sto trattando con 5 watt. Ho visto. Attaccare a testa, quando non è quella di stare con le radio, con le cose, prendo queste radio così piccoline per il locale, a voglia. Poi per la ricezione gli ho messo gli altoparlanti che sono alla fine del mondo. Non so anche tu ricevendo, sono di qua. Capo, a te un momento che ti voglio fare una prova. Ho girato in USB, ho fischiato 115. Sì, ti ho sentito. Ho ricevuto, ho sentito. Ti sta dando quanto adesso? 30? No, mi sta dando 30 watt modulati. Va bene. Ho detto con la radio deve darmi 25, quando tu c'hai 25 watt in AM, in banda ne hai 100, io sei tranquillo, lì è tranquilla. Sì, no, mi sto dando... quasi 20 watt a potenza fissa. Sennò 15 a portante muta e 30 modulati. Sì. E io voglio quella radio sono lì, non c'è niente da fare. Quindi pertanto non salvo. Tu intanto ti può dare anche 90 watt, 80 watt, ti ho tossato, ti ho strappato, tutto quanto. Tutto un risacciato, non compagni nulla. Loro escono bene con quel vantaggio, basta, finito, una volta che arrivano a 35-40 watt sono fatto. Capo, però cioè, tu, io se gli ho messo uno slider al massimo satura, ma c'è in saturazione, però se lo lascio così e vado in banda, e supera i 100, 110, 115 o 120, non satura, se lascio uno slider così, non satura mai. Ti dà la potenza però non satura, però se l'aumento lo dovrai a fine corsa allora satura. Dopo questo mandano in finale, sai, facciano lavorare i finali oltre la soglia. Ovviamente tutti gli esteri nella macchina sempre a 150, tutti gli esteri nella macchina a 180, già fino là giù appagando. Va bene. Mi allontano un attimo che bevo un bicchiere, la provaso. E io qua mi prendo un bicchiere di birra. Ah. mangi un parapulo e c'è spogliatori. Cos'è? Di domani mangi un parapulo e c'è spogliatori. E perché? Perché si è rotto il coso dell'avviamento. L'ho portato oggi e non si trova il pezzo. Vabbè, già pagato il suo bagaglio, non mi sa fare gli duraggio, l'avevo comprato il primo di Gricome, ho pagato 79 euro, quello da 25 cc. Così ho 25 cc, comunque su minori. E grazie a Dio che mi faccio tutta l'anza la campagna, ho tagliato da 4 anni, non l'ho fatto, quindi. Allora, figlio, vado a prendere un nuovo uguale domani, niente, uguale niente. Siccome mi va già da 4 anni. Ma la modifica voglio la puoi fare? Ma la modifica, lui sa fa modifiche, cose, mi prendo, mi conservo il motore di questo qua. Mi conservo tutto qua, te me ne prendo uno nuovo, tanto sto a fare modifica, a comprare il pezzo, uno di 40 euro, oggi uno di 30, però mi ci nuovo. Cosa devo stare in chiesa, funzionare, fa, tanto quando vai a spendere quella cifra, va a spendere una quarantina di euro, più ho il tempo a fare modifiche e cose, tanto da bricco come il mio figlio, 79 euro, il mio figlio uguale, così quello vecchio non uso per tutti gli esami in più. Quello sì. E vabbè, se è buono un motore, puoi mettere, usare tutto il motore intero. Cosa, Franco? Se è buono il motore, se lo prendi uguale, lo puoi usare tutto il motore intero di quello che si è rotto adesso. Sì, esatto, no, ma poi me ne prendo un altro, perché cosa faccio? Me li alterno, mi seguo. Uno mi tengo il filo, mi tengo il disco, mi tengo la lama. Anche per quello che lo sto prendendo, magari già me la faccio, la modifico, oppure mi cerco il pezzo, però gli chiedo domani a Brico e non lo posso comprare il pezzo, poi un altro me lo prendo, perché mia moglie, quando ci sono cose grosse, devo stare a cambiare, a mettere dal filo, a mettere la lama, io ho il disco. Quindi uno dà sul disco un viso e uno tengo un viso. E non devo stare a chiavi in mano, a prendere, a rondelle, a cuffiglie e cose. No, giù di lui e ciccio. Capo. Sì. Vabbè, io... Se costano così poco, io pensavo che costava molto. Se costano così poco, ti ha fatto 2-3 anni che ce l'ha travagliato. Sì, ma anche le motoseghe io ho quella piccolina, no, quella per portare, che l'ho pagata 69 euro, e quella grande con la lama da 50, da 60, grande. Quella più grande, quella normale, l'avevo pagata 80 euro, mi sa, 89. E ce l'ho già 4 anni, grazie a Dio l'idrato, per quello che uso io vanno bene. Inutile prendere un cespugliatore da 400 euro, non me ne faccio nulla, a me mi interessa un cespugliatore, perché c'ho rasa erba, del cespugliatore, motoseghe, a Puglia, tanto li ho dati 4, 5 volte all'anno, 6 volte all'anno, cosa devo fare lì a comprare roba di marca, giusto per dire che c'ho la roba di marca. Me ne prendo un altro e me lo lascio col filo fisso, e quello là piano piano me lo aggiusto quando trovo il pezzo e me lo prendo. Così di due. Quello là, quello che mi si è rotto e c'è il carburatore nuovo lì. L'ho comprato quest'anno un carburatore nuovo e l'ho pagato 30 euro. Infatti ha giudito, ma ne aggiungo 40 e mi scivo, però va, non piglio il regolatore, ma c'è voce anda. Oggi si è facciato il soggetto e non è andata, non tira, non ben sato, infatti mi dice, va, 40 euro. 30, 40 euro e magari a poi un mese mi vado un altro difetto, quindi non piglio un altro e basta. Guarda che a volte durano più quella roba, quella che recepi tu, dimmi, no? Senza marca, che quella con la marca, che le paghi al doppio. Ma sì, fra, perché intanto guarda, uno che non fa uso, che non ne fa uso intensivo di questa roba qui, che non la usa tutti i giorni, alla fine quando ti metti